vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare. E chi se ne frega se è sesso, se è amore? Conosco la tua pelle, tu conosci il mio odore. Che poi chi l'ha detto che è peggio un culo di un cuore? E che serve una canzone per parlare d'amore. Ma non confondere l'amore e l'innamoramento, che oramai non è più tempo. E senza perdere il senso dell'orientamento quando fuori tira vento. Per due che come noi non si son persi mai, e che se guardi indietro non ci crederai, perché ci vuole passione. Vuoi fare un bambino o lo faccio io? Se ti fa piacere so farlo da Dio. Oppure vorresti che fossi tuo padre per stringerti al petto e cantarti le fiamme? E chi se ne frega di Jung o di Freud? Non siamo dei santi, dai, sbagliamo anche noi. E a volte è anche bello trattarsi un po' male, dormire di schiena per poi farsi abbracciare. Ma non confondere l'amore e l'innamoramento, che oramai non è più tempo. E senza perdere il senso dell'orientamento quando fuori tira vento. Per due che come noi non si son persi mai, e che se guardi indietro non ci crederai, perché ci vuole passione dopo vent'anni a dirsi ancora di sì. E stai tranquilla, sono sempre qui a stringerti la mano. Ti amo. Andiamo.